Allora direi che passiamo poi a sentire il lato autoriale, prendo anche il microfono così possiamo continuare questa chiacchierata invece con Luigi Bernardi che invece può dirci il lato dello scrittore, perché tutti questi problemi della precarizzazione come incidono poi anche sulla qualità di chi fa invece il mestiere di autore? Io vado subito fuori tema, perché, Bene. no, perché ho una storia lunga da raccontare, allora mi pare anche interessante sentirla, perlomeno se non pecco di presunzione. Io lavoro in editoria dal 78, quindi sono un bel po' di anni. Nel 78 ho fondato una casa editrice che nell'80 due fortunatamente sono riuscito a vendere a un grande editore, cioè era una casa editrice di fumetti e sono riuscito a venderla a Sergio Bonelli e subito mi sono scontrato con un universo, quello di un editore che non sapeva fare il proprio mestiere, cioè Sergio Bonelli aveva quattro case editrici, due in attivo, due in perdita, gli ho detto mettili insieme. Con le tasse che paghi da due di queste case editrici, ripiani i debiti delle altre due e alla fine fotti lo Stato e riesci a fare un piano editoriale comprensivo di tutto quanto. Lui, in tutta risposta, mi ha cacciato, poi l'ha fatto diversi anni dopo, però l'ha fatto quello di riunire le sue quattro case editrici in una soltanto. Nell'89 ho fatto un'altra casa editrice, Granata Press, che è fallita nel 95, avevo 16 dipendenti, tutti quanti a tempo indeterminato, una quindicina di collaboratori esterni, ma forse anche di più, uno stuolo di lavorazioni che comprendevano tantissime cose perché facevamo pubblicazioni per l'edicola, per le librerie, videocassette, doppiavamo video, facevamo per cui le competenze più disparate e però sempre con grande correttezza io ho sempre cercato di lavorare come si lavorava una volta, cioè come io pensavo si dovesse lavorare. Questo mi ha portato al fallimento. 2 anni dopo ho partecipato al primo corso per editoria, nel senso che sono stato chiamato da una società bolognese che aveva organizzato questo primo corso di editoria con Fondicei e io avrei dovuto essere uno degli insegnanti maggiori. 120 iscritti per 20 posti, quindi selezione durissima, corso molto buono, almeno 10 di quei 20 che parteciparono al corso lavorano tuttora in editoria e quindi come prima esperienza direi piuttosto valida. Poi ho cominciato a lavorare per editori di vario tipo. Hobby and Work, Deriva Prodi, Einaudi, voi vi lamentate giustamente che io ho lavorato per 4 anni con Einaudi, ho creato la collana Stili di Pronoir, a 12 giorni dalla chiusura del contratto, dalla fine del contratto, mentre aspettavo il rinnovo, mi hanno detto che non me l'avrebbero rinnovato. Per 3 anni hanno continuato a pubblicare i libri che io avevo selezionato, continuavano persino a usare il mio nome come direttore di collana, quindi lettera dell'avvocato, da collana diretta da hanno messo collana fondata da nuova lettera dell'avvocato e questa volta per non andare in giudizio mi hanno dato dei soldi e quindi adesso hanno il diritto di usare il mio nome come fondatore della collana Stile Libero Noir. Poi ho lavorato per altri piccoli editori, attualmente sto lavorando per un piccolo editore e anche per un grande editore, sempre a livelli di alti, dalla direzione editoriale alla consulenza di un certo livello. E anche lì nella più assoluta precarietà. Ho fatto molti di questi corsi ad esempio, i corsi che organizzavano, ecco, bene dirlo, cioè la gran parte dei corsi per redattori editoriali che vengono fatti servono a finanziare le case editrici che li organizzano. E questo vale soprattutto per le case editrici dell'area romana. Adesso si sono spostati anche un po' a Milano, poi non solo romana, ma poi vanno ovunque a farli perché ne hanno bisogno, perché altrimenti non sopravviverebbero, perché altrimenti molte di quelle case editrici che organizzano questi corsi oggi non potrebbero più, rispondere dei propri bilanci. Di fatto credo che l'utile che deriva da questi corsi, oltre al fatto poi di prendersi stagisti, eccetera, contribuisca alla sopravvivenza di un mercato editoriale che, io sono d'accordo con Guaraldi, prima o poi avanti così non potrà andare. Il mercato editoriale che voi pagate sulla vostra pelle ormai è un mercato finanziario. Quando io sono entrato in Audi mi hanno detto: guarda di non scegliere libri che vendano meno di 4.000 copie. Già, è una cosa terribile, cioè immaginare quale libro può vendere 4.000 copie e quale no. Io pensavo più o meno di saperlo fare e ci ho anche azzeccato. Ci ho talmente azzeccato che 3 anni dopo le mie 4.000 copie sono diventate 7.000. Perché? Perché la collana andava talmente bene che superava ogni anno il budget corrispondente alla collana, quindi l'anno successivo il budget aumentava e io dovevo rispondere a quel budget e via dicendo. Voi ridete, ma pensate al problema che ha oggi Marsilio. Marsilio con la trilogia di Larson ha venduto troppo per la sua casa editrice, tant'è che ha dovuto comprare Sonzogno, che non se ne farà nulla perché chi può oggi rileggere l'Iala o cose del genere, però aveva questa eccedenza di bilancio che ha dovuto spenderla, ha dovuto spenderla. Pensate ai problemi. Voi direte, li vorrei avere io questi problemi. Certo, ma in realtà non li risolvereste. I problemi che ha avuto EO con 1.250.000 copie vendute lì in Riccio. Ha dovuto spostare praticamente metà del suo budget sulla casa editrice americana che ha costituito, cioè la, mi ricordo come si chiama. E queste sono tutte mosse che sono dettate dal fatto che ogni editore deve farsi eseguire il proprio budget. E più un libro vende, più l'editore in realtà è in difficoltà, non l'editore quello che alla fine è il maggiore azionista, evidentemente, perché quello ci gode soltanto, ma il responsabile di quel settore. Pensate che a Stradebue aveva fatto piacere. A Prugnatelli sicuramente ha fatto piacere il successo di Gomorra, ma gli ha talmente scombussolato il budget che adesso trema perché non riuscirà mai più a replicarlo. E lo stesso vale per tutte le case editrici, per tutte le collane, per tutti i direttori di collane che azzeccano un libro. Direte, e con me cosa c'entra tutto questo? C'entra che è così dappertutto, cioè voi non state pagando un problema delle case editrici. Le case editrici oggi in Italia fanno libri, ormai sono, credo che pochi si facciano ancora illusione di un'appartenenza al mondo della cultura. Siamo dentro all'intrattenimento, siamo dentro allo spettacolo, siamo dentro a qualcosa che è molto diverso da quello che poteva essere 40 o 50 anni fa. Oggi si fanno libri per essere venduti perché questo vuole il lettore. Il lettore vuole leggere 3 romanzi di Camilleri all'anno e gli editori gli danno 3 romanzi di Camilleri all'anno. Il lettore vuole leggere certi... tant'è che se qualcuno di voi ha lavorato nelle grandi case editrici lo sa, di solito quando si fanno le schede per un libro per la promozione, si indica copertina, autore, titolo, descrizione, eccetera, eccetera. Ci sono delle schede molto semplici, invece dice Fabio Volo 2011, finito, cioè, Bruno Vespa 2011, e quindi è il prodotto, è... E voi in questa catena non c'entrate niente, cioè voi siete... siete figli, giustamente, della mia stessa illusione, cioè di quella che si possa fare un lavoro editoriale, che i libri vadano curati, che i libri vadano, escano senza errori, che i libri siano un processo di selezione continua, che i libri si debbano annusare, che i libri si debbano... Sì, però il mondo è andato da un'altra parte, i reader cambieranno tutto, cambieranno anche molto il vostro lavoro, nel senso che sarà sempre meno importante il vostro lavoro, cambierà, Non lo so perché molti di questi lavori, ad esempio il lavoro grafico, viene quasi completamente a sparire, perché quelli poi è il lettore che decide corpo, carattere, e quindi cambieranno tante cose, ci saranno molti autori che potranno accedere direttamente, potranno benissimo fare a meno dell'editore per accedere direttamente alle piattaforme tipo iTunes, al di fuori della casa editrice. Quindi dal 1978, da quando io ho fatto questa mia prima casa editrice, andando in tipografia, sporcandomi le mani d'inchiostro, battendo i testi su una vecchia macchina da scrivere, poi portando in fotocomposizione, eccetera, è cambiato talmente tanto che oggi i libri se li può fare chiunque a casa propria, nonostante la crisi, nuovi editori tutti i giorni, la stampa digitale ha reso possibile fare dei libri con un investimento risibile, e quindi tutto questo porta necessariamente a una spersonalizzazione del lavoro editoriale. Noi conosciamo grandi case editrici, grandi redattori, grandi direttori di collana, ma tutto questo fino agli anni 60, 70, forse 80. Dopo si è tutto massificato. Io non so chi è che sceglie i libri che escono nella collana che io ho fondato. A volte ne ho il sospetto, a volte rabbrividisco perché sono libri bruttissimi, a volte invece mi piacciono. Però ormai mi hanno incatenato questa cosa. Vabbè, poi ci sarebbe il discorso invece della scrittura, che magari facciamo dopo.